Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. La Commissione europea ha chiesto anche al Belgio informazioni sulle cosiddette tax ruling, le decisioni ad hoc sulla tassazione da imporre ad alcune aziende dopo lo scandalo LuxLeaks. Ad annunciarlo il portavoce del commissario alla concorrenza Margaret Vestager. Intanto nuove accuse al presidente della Commissione Jean-Claude Juncker arrivano dal Wall Street Journal. È stato l'uomo di punta nella vendita del sistema fiscale del suo paese nel mondo, scrive, citando un discorso fatto dall'allora premier lussemburghese al Parlamento del Granducato nel maggio del 2003. Intanto è una realtà in bianco e nero quella del bollettino mensile della BCE che, come di consueto, fotografa l'economia europea. La Banca Centrale Europea rileva un lieve miglioramento del mercato del lavoro guardando agli ultimi dati su occupazione e disoccupazione. Tuttavia, scrive l'Eurotower, persistono marcate differenze tra paesi e fasce di età e si profila una dinamica stagnante del lavoro nel periodo a venire. Europa, insomma, ancora a due velocità e poco compatta l'Europa si presenta all'appuntamento tra qualche ora col G20. È l'Europa il punto debole dell'economia mondiale, la fonte di preoccupazione più grave per i leader del G20 che si riuniranno da domani a Brisbane in Australia. Alla vigilia degli incontri il segretario al tesoro americano Jacob Blue ha parlato del rischio di un decennio perduto in termini di crescita per il vecchio continente. Il Fondo Monetario, in una nota preparatoria ai lavori del vertice, ha rilevato che la ripresa europea sarà più lenta del previsto. In un'intervista al Sole 24 Ore in edicola domani, il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, sostiene che c'è il pericolo che la stagnazione europea pesi sulla crescita del resto del mondo. Con i tassi a zero e le mani legate sui conti pubblici bisogna puntare sulle riforme strutturali come quella del mercato del lavoro, secondo Gurria, che indica l'esempio della Spagna dove la crescita è ripartita e la disoccupazione ha cominciato a calare. Dal Fondo Monetario invece ancora una volta c'è una sollecitazione alla Banca Centrale Europea, se sarà necessario, a ulteriori misure di stimolo, compreso l'acquisto dei titoli pubblici. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Brisbane. A Roma si discute invece in queste ore di migrazione in un convegno che riunisce rappresentanti di diversi paesi europei, con un monito a Bruxelles. Khalid Chaouki, componente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Il tema è quello di un piano europeo che unisca, quello che è il tema di gestione dell'accoglienza con la cooperazione internazionale. Non si può solo cercare di risolvere gli effetti di crisi che invece andrebbero affrontati alla loro radice e quindi affiancare la politica estera alle politiche di immigrazione. In queste giornate si sta discutendo anche nei confronti di altri colleghi europei e credo che davanti agli occhi di tutti il fatto che l'Europa continua ad essere schizofrenica e da una parte a parole sostenere e valorizzare quello che è il lavoro che l'Italia ha fatto con Mare Nostrum e dall'altra girarsi dall'altra parte. Quindi il neocommissario all'immigrazione e l'ex ministro greco si è detto aperto a rivedere insieme un sistema di corresponsabilità. Dal punto di vista dei documenti ufficiali abbiamo visto un avanzamento che parla sempre più di una gestione collegiale di quote divisi per paese. Insomma, la Commissione dovrà dirci esattamente cosa ha intenzione di fare. Chiudiamo andando a Bruxelles con l'Expo di Milano che sbarca all'Europarlamento, presentato ieri sera il Padiglione Europa. Il direttore allora di Padiglione Europa, Matteo Fornara. Il padiglione è in costruzione. Noi dal nostro punto di vista siamo pronti perché le infrastrutture che devono entrare, anche la storia che racconteremo, che è la storia di quello che l'Unione Europea ha fatto negli ultimi 50 anni sui temi dell'Expo, sull'alimentazione, sulla sicurezza alimentare, è pronta praticamente, quindi entro il 1° maggio saremo assolutamente pronti con il nostro padiglione. L'esposizione qui non sono stati presentati insieme tutti i padiglioni dei paesi membri dell'Unione Europea. Il nostro più 20 padiglioni nazionali, partecipato il Presidente del Parlamento, c'erano molti parlamentari europei perché è in corso la sessione del Parlamento e quindi tra l'altro per noi l'Unione Europea all'Expo sta diventando il catalizzatore un po' del dibattito scientifico sui temi legati all'Expo e noi speriamo diventi un dibattito politico istituzionale non solo con i paesi membri ma anche con i partner internazionali e i grandi paesi che hanno relazioni con l'Unione Europea. Ci fermiamo qui per ora, ma l'Europa, vi ricordo, vi aspetta come sempre per l'appuntamento con Europa Notte. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.